Friuli nel mondo, 200ª trasmissione dedicata agli emigrati, Gotis di Rosade. Vi presentiamo oggi, cari amici radioascoltatori lontani, due delle cinque rapsodie di Villotte che Cesare Augusto Seghizzi, compositore validissimo e ricercatore sensibile della musica folcloristica friulana, raccolse, elaborò e intitolò Gotis di Rosade. Sono motivi stupendi e delicati di antiche villotte popolari nostrane, la cui esecuzione, genuina e aderente alla tradizione canora del Friuli, è affidata alla bravura tecnica e interpretativa del complesso polifonico goriziano diretto da Cecilia Seghizzi. Volvin giorni, allegria, alleluia, mozzo, alleluia, rossi, alleluia, sonara, alleluia, ave Maria, alleluia, pomo, alleluia, sali. Olilla, olilla, lele, olilla, olilla, olilla, olilla, lele, olilla, olilla, olilla, sempre allegri e mai passati. Olilla, allegria, olilla, mozzo, olilla, sì, olilla, sonara, olilla, ave Maria, olilla, dopo mal, olilla, se sapessi fantasini, se crason sospirs d'amor, e si musci va sottiare, ance mossi sin dolor. E cui sono che cacianti, e cacianti in cui balli stupieri, si io con balli, tu culi so culi si io col battalli, tumla la tumla la tumla la tumla la tumla la tumla la la li lula, la li lule li le, la li lule li le, la li lule li le, viva l'amor, viva l'amor, la li lule li le, la li lule li le, la li lule li le, la li lule li le, viva l'amor. Viva l'amor, viva l'amor. Ascoltate infine due delicate leggiadre villotte composte dallo stesso Seghizzi, dal titolo Agnol mio e Non stava i bambine. Agnol mio, non ti consolare, non darei Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.